Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Oggi torniamo a parlare, ve lo abbiamo preannunciato ieri, di adempimenti fiscali, un tema che non ci mette certo di buon umore, ma che soprattutto in questa stagione è senza dubbio utile tornare ad approfondire. Qualcuno ha già provveduto a fare tutto, altri invece dovranno probabilmente ancora sistemare le ultime cose. Per fortuna vengono in aiuto a molti le proroghe delle scadenze che quest'anno hanno dato un po' di respiro quasi a tutte le categorie di contribuenti. Per il modello 730, in particolare per chi si affida al CAF, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista, c'è ancora tempo fino al 20 giugno, mentre chi ha fatto riferimento al sostituto d'imposta, alla propria azienda, se sia un lavoratore dipendente, tanto per intenderci, ha già archiviato la pratica a metà maggio. Slittano poi al 9 luglio le scadenze per unico, diversamente, anche se solo per alcune categorie, si attende ancora che vengano ufficializzati correttivi anticrisi per gli studi di settore. E non dimentichiamo che quest'anno per la prima volta vengono indicate nella dichiarazione dei redditi, per l'appunto, la famigerata IMU, a cui abbiamo già dedicato tutta la puntata di ieri, e la cedolare secca sugli affitti. Salva Danaio, lo avrete capito, stamattina fa il punto della situazione sulle ultime scadenze fiscali e risponde alle domande degli ascoltatori, come sempre, all'800240024. È tutto pronto a casa vostra per la dichiarazione dei redditi di quest'anno? Avete ancora qualche dubbio o qualche difficoltà che non avete ancora chiarito, raccontatecelo, perché noi stamattina vi abbiamo messo a disposizione due esperti che scrivono per il Sole 24 Ore. Oltre a questo, sono entrambi direttori scientifici, appunto, di Master 24 professionisti. Giovanni Valcarenghi, commercialista in Brescia, buongiorno. Buongiorno Deborah a tutti gli ascoltatori. E buongiorno e benvenuto anche a Sergio Pellegrino, collega di Valcarenghi, commercialista in Trieste. Buona giornata anche a lei. Buona giornata a tutti. Allora, io ho già dato l'indicazione ai nostri ascoltatori per potervi tempestare di domande. Questa mattina si devono dirimere ancora alcuni dubbi, si devono chiarire ancora alcune cose relativamente agli adempimenti fiscali di quest'anno, anche perché, appunto, come sapete, ci sono state tante novità. Più o meno le spese che potevamo dedurre o detrarre sono le stesse degli anni passati, ma qualche cambiamento c'è stato. Tanto per farne uno, sono debuttate nel modello unico due nuove imposte che colpiscono gli immobili detenuti all'estero e le attività finanziarie possedute all'estero, tanto per fare il punto su alcune delle novità appunto introdotte quest'anno, ma ce ne sono anche altre e torneremo naturalmente a ricordarvele. Oltre a chiamarci al numero verde, potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, così come potete andare anche a cliccare like, mi piace, su salvadanaio-radio24, che è il nostro profilo Facebook. Avete anche l'opportunità lì eventualmente di porci dei quesiti sul tema di oggi. Prima di cominciare a chiacchierare con Valcarenghi e Pellegrino, un'occhiata alla borsa, un minuto per raccontare questa giornata sui mercati finanziari, ancora molto incerta, un po' meglio di ieri. Per la verità, ieri mattina le cose andavano molto bene, le borse, come vi abbiamo largamente raccontato, avevano plaudito all'iniziativa del fine settimana di garantire questi fino a 100 miliardi di euro per la ricapitalizzazione delle banche spagnole da parte degli organismi internazionali, in particolar modo dell'Unione Europea. E poi nel pomeriggio, appunto, le borse ci hanno ripensato e le vendite sono tornate molto insistenti, hanno colpito soprattutto Milano, che ha chiuso con un ribasso di quasi 3 punti. Stamattina la seduta era partita di nuovo piuttosto male, Milano è arrivata a perdere oltre 1 punto percentuale, adesso tenta disperatamente di riportarsi sulla parità. Il FTSE MIB fatica adesso, aggancia appunto questo livello, è ancora leggermente negativo, ma comunque c'è un miglioramento rispetto a una mattinata che è stata più pesante. Ovviamente, neanche a dirlo, visto che tutta colpa anche dello spread, che è di nuovo tornato ad allargarsi fin sopra i 480 punti base stamane, gli operatori hanno colpito di vendite soprattutto i titoli bancari. Fiat Industrial è però adesso il peggior titolo, perde il 3% con Monte dei Paschi, rischi, Mediolanum perde 1,5 punti, media 7-1,41, però ribadisco, rispetto all'apertura il quadro è leggermente migliorato. Comunque i big del credito sono tutti in calo di oltre 1 punto. I migliori titoli: Telecom più 1,29, Lottomatica più 1,27, Impregilo più 1,17, Atlantia più 1,12, Enel più 1,10. Le altre borse europee: Parigi segna più 0,44, Francoforte più 0,71, Londra più 0,48, l'euro sul dollaro è a 1,25 e 18. Questa è la borsa. Andiamo però al tema di oggi e alle ultime cose da fare negli ultimi giorni per la dichiarazione dei redditi di quest'anno. La nostra scheda. Si avvicina alla conclusione anche questa stagione di dichiarazioni dei redditi, che non si è fatta mancare qualche novità rispetto agli scorsi anni e qualche correzione in corso d'opera, in particolare dal punto di vista del calendario. Per il modello 730, in particolare per chi si affida al CAF o a un professionista, c'è ancora tempo fino al 20 giugno. In origine la scadenza era fissata al 31 maggio, mentre chi ha fatto riferimento al sostituto d'imposta ha già archiviato la sua pratica il 16 maggio scorso, dopo aver goduto a sua volta di una proroga rispetto alla scadenza del 30 aprile. Slittano anche le date per i versamenti di Unico, 21 giorni di tempo in più, senza maggiorazioni, per tutte le persone fisiche e i contribuenti tenuti agli studi di settore, società di persone e di capitali comprese. Il termine per il saldo delle imposte 2011 e per il primo acconto 2012, senza interessi, si allunga dal 18 giugno al 9 luglio 2012. La scadenza non cambia per i versamenti dovuti dai soggetti collettivi estranei agli studi di settore e resta uguale per tutti, e sempre ancorata al 18 giugno, la scadenza per pagare la prima rata dell'IMU. Infine, c'è il debutto nelle dichiarazioni dei redditi del 2012 della cedolare secca. Per la prima volta il contribuente è tenuto infatti a indicare l'eventuale esercizio della cosiddetta tassa piatta sugli affitti. 800 24 00 24 è il numero verde che, se volete, vi dà la facoltà, l'opportunità di interagire con noi, di porci le vostre domande in diretta, alle quali risponderemo con i nostri ospiti di stamattina. Potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure andate a curiosare sul nostro profilo Facebook. Anche da lì potete inviarci i vostri quesiti. Siamo al profilo salvadanaio-radio24. Un ascoltatore ci fa al 349-238-6666 subito una domanda che io avrei voluto fare ai nostri ospiti per capire chi è esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Sergio Pellegrino, inizio con lei, che non è mai intervenuto nella nostra trasmissione, quindi iniziamo magari con una domanda molto semplice per metterla a suo agio. Sto scherzando naturalmente, buongiorno ancora. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda, diciamo, i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ci sono diverse fattispecie. Ad esempio, la situazione nella quale abbiamo un contribuente che ha un reddito complessivo che non supera gli 8.000 euro e se a questo reddito complessivo concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato. Poi ci sono altre situazioni che variano a seconda dei diversi importi. Ad esempio siamo nella situazione nella quale il contribuente ha un reddito complessivo che non supera i 7.750 euro se a questo reddito concorre un reddito di pensione. E poi le situazioni più frequenti, quando abbiamo dei contribuenti che hanno soltanto redditi di lavoro dipendente o di pensione e redditi di fabbricati che sono collegati esclusivamente al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Certo, in questo caso questi contribuenti hanno ricevuto la certificazione dei redditi percepiti lo scorso anno da parte del datore di lavoro, ma lì si ferma tutto il loro lavoro nei confronti dell'amministrazione fiscale, non devono fare altro, ecco. Assolutamente. Oppure ancora situazioni nelle quali, ad esempio, il contribuente ha dei redditi esenti, sono situazioni magari non così frequenti, ad esempio possono essere delle rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente, insomma fattispecie di questo tipo, insomma. Quindi le casistiche sono diverse, Certo. Queste sono quelle un po' più frequenti. Le regole di base, diciamo, chi fa, dottor Pellegrino, sempre il 730 e a chi invece conviene compilare il modello unico? Beh, allora, il 730 sicuramente conviene nel momento in cui il contribuente ha un credito, perché a questo punto il credito può essere erogato da parte del sostituto, da parte del datore di lavoro. Per quanto riguarda la compilazione del modello unico, ad esempio, ci sono delle situazioni nelle quali se il soggetto, il contribuente, detiene anche delle attività all'estero e quindi deve andare a compilare il modulo RW, che è uno dei quadri più importanti dal punto di vista dell'adempimento dichiarativo, perché ci sono dei profili sanzionatori importanti, ecco che in una situazione di questo tipo comunque il modulo RW deve essere presentato e quindi, insomma, in una fattispecie del genere è opportuno andare a presentare direttamente il modello unico. Giovanni Valcarenghi, veniamo a lei. Il 6 giugno scorso è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è stabilita appunto la proroga per i versamenti di Unico 2012, tanto attesa questa proroga, poi ufficializzata appunto la settimana scorsa. Adesso ci sono almeno 3 settimane di tempo in più per i versamenti senza maggiorazioni, quindi, come dire, un po' un sospiro di sollievo anche per i commercialisti? Sicuramente sì, un sollievo da un lato e un po' una proroga della sofferenza, perché sono giorni un po' frenetici davanti alle scrivanie, però insomma prendiamo dal lato buono e aggiorniamo la nostra agenda per dire che la data in cui va effettuato il versamento per tutti i contribuenti, persone fisiche, pensiamo ai casi proprio più semplici della dichiarazione, è stato slittato non più dal 18 giugno fino al 9 di luglio, quindi ci sarà tempo fino al 9 di luglio per effettuare il pagamento senza alcuna maggiorazione. Per chi volesse spingersi nell'estremo periodo estivo si può prorogare fino al 20 di agosto, in questo caso però il pagamento deve essere maggiorato di uno 0,40% a titolo di corresponsione di questo ritardo sul versamento. Certo, volevo però precisare che questa proroga non è per tutti i contribuenti, esatto. Quindi magari ricordare che le società, quindi non più le persone fisiche ma i soggetti societari, che siano società di capitali o società di persone, possono beneficiare di questa proroga solo laddove siano soggetti agli studi di settore e quindi, diciamo, c'è una sorta di piccola selezione. È vero sì che la gran parte dei contribuenti va al 9 di luglio, ma attenzione ai soggetti societari che per beneficiare di questa proroga devono verificare da prima di essere soggetti agli studi. Speriamo che abbiano un'adeguata assistenza dal punto di vista del commercialista, che non li faccia incorrere in errore. Ma Valcarenghi, come mai si è resa necessaria questa proroga per i versamenti di Unico 2012? In gran parte, lo sappiamo, abbiamo attribuito molta responsabilità anche a questo nuovo onere che è arrivato addosso ai contribuenti, cioè il pagamento dell'IMU, e quindi si è cercato un po' di alleggerire probabilmente l'adempimento con il fisco di quest'anno. C'è solo questo dietro alla proroga appunto per i versamenti, oppure anche il fatto che magari quest'anno la dichiarazione dei redditi è stata un po' più complessa rispetto agli ultimi anni? Ma è sicuramente il debutto dell'IMU è una delle principali cause, aggiungerei anche un ritardo nel varo di alcuni chiarimenti e di alcuni provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Basti ricordare che le ultime correzioni alle istruzioni per la compilazione del modello sono arrivate solo il 18 maggio scorso, quindi diciamo un po' di ritardo dovuto anche agli ultimi provvedimenti normativi, la conversione del decreto legge sulle semplificazioni fiscali, sono sicuramente gli artefici dello slittamento. Aggiungerei anche, l'hai ricordato tu prima correttamente, che il ritardo, lo slittamento, insomma, può essere dovuto anche ai chiarimenti per tutti coloro che hanno dei beni immobili o delle attività finanziarie all'estero, perché il 2011 segna anche il debutto di una nuova imposta patrimoniale su questi beni e c'era bisogno di alcuni chiarimenti che sono arrivati la settimana scorsa. E allora magari ne parleremo nella seconda parte di Salvadanaio. Direi di andare a fare subito la nostra prima pausa in modo tale che raccogliamo le idee, cerchiamo di capire anche quali sono gli interventi degli ascoltatori ai quali potremmo dar spazio adesso nella seconda parte, perché stanno arrivando tante telefonate da parte vostra, quindi vorrei cercare di così avere un quadro chiaro delle domande per prendere quelle che possono magari interessare una platea più generale. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. A parte le novità che sono arrivate quest'anno e anche il carico fiscale più alto rispetto agli altri anni, ragioni per le quali si è resa necessaria questa proroga, dicevamo prima con i nostri ospiti, i nostri due commercialisti di stamattina e anche esperti del Sole 24 Ore, Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino, la proroga si è resa necessaria anche perché l'Agenzia delle Entrate continua a emanare chiarimenti su chiarimenti, è una, come dire, situazione ricorrente ogni anno, ma che quest'anno è stata particolarmente evidente. Peraltro, Pellegrino, un tema un po' complicato, ma proprio ieri sera l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la 23.e/E, che riguarda le cosiddette società in perdita sistematica. Ci traduce per noi comuni mortali che cosa ha riguardato questo provvedimento e chi interessa? Si tratta sicuramente di una delle tematiche che maggiormente ha preoccupato le imprese in questo ultimo periodo, perché c'è stato un inasprimento molto forte sulle cosiddette società di comodo, cioè le società non operative, che è stato operato dal legislatore l'anno scorso. Sostanzialmente che cosa accade? Accade che una società può diventare di comodo e ha di conseguenza tutta una serie di limiti nell'utilizzo del credito IVA, ma soprattutto anche un incremento della tassazione sensibile, si arriva ad un'aliquota del 38% per i soggetti IRES, anche quando è appunto in perdita sistematica. Vuol dire che essere in perdita fiscale per 3 periodi di imposta consecutivi determina appunto l'applicazione di queste misure così restrittive. Ieri, come ricordavi, è stata emanata questa circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate ed è stato anche emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che era molto atteso, era annunciato da mesi, ma insomma è arrivato un po' tardivamente, e questo provvedimento è importante perché individua una serie di cause di disapplicazione di questa normativa. Faccio l'esempio di quella più ricorrente, quella più importante, e cioè l'impresa che è in perdita sistematica nei 3 periodi precedenti, quindi se facciamo il caso del 2012, nel periodo 2009, 2010 e 2011, può disapplicare questa normativa così stringente se è stata congrua e coerente ai fini degli studi di settore in almeno uno di questi 3 anni. Quindi è un provvedimento da questo punto di vista importante, perché va a incidere proprio sul versamento degli acconti che ci approssimiamo a fare nei prossimi giorni, cioè il 18 giugno, oppure se possiamo beneficiare della proroga entro il 9 luglio. Benissimo, grazie per il chiarimento. Adesso andrei subito a sentire i nostri ascoltatori, perché ci sono tanti casi che naturalmente ci stanno rappresentando. Mi incuriosisce quello di Laura, che ci ha scritto a salvadanaio@radio24.it, che ci racconta di avere un problema con la detrazione delle spese per il nido di suo figlio. La struttura dove va è una scuola materna con un nido interno che è denominato sezione primavera. Io ho pagato i bollettini che mi manda la scuola direttamente in banca, questi pagamenti non mi sono stati accettati dal CAF, dove mi sono rivolta, perché proprio sopra c'è questa denominazione sezione primavera, che è il nome di questo nido. Altri genitori che hanno pagato invece la retta con bonifico o home banking, denominandoli retta nido, li hanno potuti includere nel 730. Valcarenghi, ma mi sembra veramente una questione di follia pura, però il fisco effettivamente ci ha abituato anche a questo, tant'è vero che per esempio qualche tempo fa, pochi giorni fa, si è resa necessaria anche una nuova iniziativa di chiarimento per far comprendere ai contribuenti che se sbagliano ad esempio il bonifico per fare il pagamento dei lavori di ristrutturazione della propria abitazione, devono farlo veramente scritto al micro dettaglio, altrimenti non possono beneficiare appunto del risparmio negli anni a venire. Questo è un altro caso, Valcarenghi. Sicuramente sono le ipotesi in cui la forma, ahimè, rischia di mangiarsi la sostanza ed è sempre un peccato. Nel caso dell'ascoltatrice Laura c'è un problema di questo tipo: il CAF, quando recepisce la documentazione per l'elaborazione del modello 730, si assume la responsabilità che tutte le informazioni indicate all'interno del modello siano conformi a quelle che sono le prescrizioni normative. Ecco perché forse un bonifico effettuato con una dicitura di quel tipo potrebbe aver impaurito, uso questo termine tra virgolette, l'operatore del CAF, che temeva di esporre la detrazione fino al massimo dei 632 euro annui per ogni figlio in modo indebito. Io credo che si possa superare il problema dimostrando che la figlia della signora Laura è regolarmente iscritta a questo nido e al di là della dicitura che è riportata sul bonifico, potrebbe, penso, aiutare anche una dichiarazione dell'asilo stesso che certifichi di aver ricevuto l'incasso proprio per la frequenza della figlia della signora Laura. Benissimo, Laura, ci faccia sapere come va a finire, chieda alla scuola questa certificazione e magari faccia un confronto anche con un altro operatore di un altro CAF, magari lì il comportamento potrebbe essere un pochino più elastico, però mi rendo conto che qualche volta anche loro come eseguono in maniera molto stringente appunto ordini che vengono impartiti dall'alto, nella fattispecie appunto l'amministrazione fiscale, che anche nella terminologia è rigidissima. Allora andiamo agli altri ascoltatori, cominciamo con Alessandro da Roma. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere questo. Il termine ultimo di presentazione del modello unico per i lavoratori dipendenti al CAF, perché il pagamento si può fare entro il 9 luglio, sì, ma la presentazione al CAF, la scadenza, non l'ho capita bene. Questa. Allora, grazie Alessandro. Pellegrino, vengo da lei fino a metà, fino a metà giugno? Guarda, la presentazione del modello unico, se parliamo appunto di modello unico, il termine di presentazione da parte dei contribuenti è fissato al 30 settembre. Ah, certo, per la trasmissione telematica. Quindi per la trasmissione telematica, e quindi diciamo che arriviamo quest'anno poi il 30 settembre è di domenica, e quindi arriviamo al primo ottobre. Poi invece è diverso il discorso per quanto riguarda il 7.30 con le scadenze che insomma indicavi tu in precedenza. Sì, che sono praticamente il 20 giugno per chi si affida al CAF o al professionista, per chi invece avesse fatto riferimento al sostitutore imposta mi sembra che la pratica si sia dovuta archiviare entro metà maggio. Alessandro, è a posto così? Perché le erano venuti dei dubbi? Certo, perché io devo intanto pagare entro l'8 luglio, però sì, la presentazione la posso fare dopo, quindi sì, entro ottobre. La trasmissione telematica va fatta dopo, sì. Valcarenghi vuole suffragare questa serie di scadenze. Diciamo che si accontenta di ricevere in anticipo i quattrini. Certamente, figuriamoci. E poi di avere i dati della dichiarazione anche in un momento successivo. Benissimo. Giuseppe da Monza, buongiorno. Giuseppe? Grazie Giuseppe, ci dica. Buongiorno. Sì, sì, un po' metallico. Vabbè. Peccato, vorrei sapere se anche quest'anno, come spero, è previsto l'unico web, anche se temo di essere uno dei pochi che lo fa, e quali sono le scadenze di presentazione. Allora Giuseppe, si vede che lei è bravo, insomma non ha paura di sbagliare, e quindi io, anche se avessi una dichiarazione dei redditi, ce l'ho molto semplice, però non la lascio sempre fare a qualcun altro, perché insomma nonostante faccia tante trasmissioni su questo argomento, predico bene e razzolo male, come in tante situazioni. Allora Valcarenghi, torno da lei per la questione appunto della trasmissione telematica, sì, di modello unico da fare il contribuente, esatto, da solo vuole fare, sì. Signor Giuseppe è amante delle procedure telematiche, devo dire abbastanza efficienti, che sono predisposte dall'amministrazione finanziaria e dall'Agenzia delle Entrate, quindi anche quest'anno... Quindi è diciamo hanno tanti difetti, ma quello non ce l'hanno. No, assolutamente, devo dire che sono efficienti da questo punto di vista. E è possibile anche quest'anno compilare online il proprio modello unico, non ci sono scadenze diverse di trasmissione, perché la scadenza ultima è sempre quella che ricordavamo prima, quindi il primo ottobre quest'anno, poiché il 30 settembre cade di domenica. È semplicemente un diverso veicolo con cui si fanno raggiungere i dati del contribuente all'amministrazione finanziaria, anziché transitare da un professionista, da un CAF, secondo le varie forme, si può agire in proprio e l'amministrazione supporta con un programma online la possibilità di compilare il modello unico, ma il termine è uguale. È uguale. Sergio Pellegrino, se dovessimo scoprire che con unico, anche se l'amministrazione fiscale, il governo ci hanno dato questa opportunità di pagare un po' più tardi rispetto alle scadenze inizialmente individuate, ma se comunque la mole del versamento da fare fosse molto alta e volessimo rateizzare, molti ascoltatori ci chiedono in quante rate si può fare, ce lo chiede per esempio un agente di commercio che ci scrive al 349-238-6666, ma a parte questa figura professionale può essere una circostanza nella quale si possono ritrovare in molti altri contribuenti. Quanta rateizzazione è possibile? Beh, allora noi possiamo andare a rateizzare il versamento del saldo del 2011 e del primo acconto del 2012 in rate mensili fino appunto alla scadenza di novembre, e quindi in questo modo andare a ratizzare, andare a spalmare il debito tributario in tutti questi mesi, chiaramente andando a corrispondere sulle rate successive alla prima gli interessi. Poi c'è la possibilità, che ricordavamo in precedenza, anche di partire direttamente il mese successivo rispetto alla scadenza del 9 luglio, quindi quest'anno partire al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 e quindi anche in questo caso comunque possiamo poi andare a ratizzare gli importi dovuti fino appunto al versamento di novembre, e chiaramente poi il secondo conto, quello del 30 novembre, lo dobbiamo versare in unica soluzione. Allora, intanto sto notando alcune domande di alcuni ascoltatori che tornano sull'IMU, e quindi qui insomma abbiamo capito che se da qui al 18 giugno facessimo 12 trasmissioni al giorno della durata media ciascuna di un'ora, riempiremmo di telefonate appunto i nostri programmi senza alcun problema. Daniela ci chiede, ci ritorno un attimo, anche se la trasmissione l'abbiamo fatta ieri, ma forse questo aspetto non l'abbiamo toccato. Ci racconta che il suo CAF gli ha consegnato l'F24 per l'acconto IMU, quello da versare il 18 giugno, di euro 1. Sono tenuta a pagare, loro dicono di sì, o c'è un importo minimo? Valcarenghi, ma mi sembra che per acconti inferiori ai 12 euro, forse mi sbaglio, c'è questa soglia, me la ricordo male, non si debba pagare? Ricordi benissimo, Deborah, la soglia fatidica dei 12 euro, che va applicata sull'intero modello F24, quindi eventualmente andando a verificare anche la sommatoria dell'IMU dovuta a più comuni, qualora Daniela, l'ascoltatrice Daniela, avesse magari immobili collocati in comuni differenti. Infatti. E quindi un F24 teoricamente da un euro non dovrebbe essere da versare sicuramente, perché è inferiore alla soglia minima. Allora, vorrei sentire Francesco da Cremona, perché il suo è un caso non singolarissimo, ma mi ci sono imbattuta, Francesco, qualche giorno fa con un mio amico al quale è arrivata una raccomandata. Si era spaventato tantissimo perché pensava che fosse arrivato chissà che cosa, ed era invece la raccomandata della sua padrona di casa, quindi praticamente della persona che gli ha affittato l'immobile, che avendo optato quest'anno per la cedolare secca gli comunicava di aver fatto questa operazione. Francesco, buongiorno. Buongiorno signora Deborah. Ascolti, noi abbiamo fatto un contratto, il primo contratto con la nostra inquilina, optando per la cedolare secca. Sì. E l'abbiamo scritto sul contratto proprio. Sì. L'agenzia delle entrate ci dice no, ci vuole la raccomandata. Però io dico, più chiaro di così, più palese di così e più farlo sapere di così, non riesco a capire cosa possa fare. Lo so, perché Francesco, io sulla raccomandata potevo scriverci ciao bella, baci e abbracci, cioè dire, non è che la quindi la il tema è, Francesco, che lei, non avendo mandato questa raccomandata, non può beneficiare appunto del pagamento dell'imposta sostitutiva fissa al posto dell'IRPEF? Cioè, loro dicono che la cedolare secca non può essere applicata. Perché manca la raccomandata. D'altronde, Francesco, la capisco. Certo, lei dice c'è già sul contratto, perché c'è, però era una regola fissata sin dall'inizio e quindi bisognava ottemperare. Magari Pellegrino, lei ci può aiutare. Per quale motivo il fisco chiede anche la raccomandata accanto ad un contratto d'affitto regolarmente stipulato, al di sopra del quale nero su bianco è scritto ti applichiamo appunto questa fiscalità? Allora, questo è, come ricordavi tu, Deborah, un requisito che è previsto dalla normativa, e quindi diciamo che l'Agenzia che ci delle Entrate no, ce prevede l'ha chiesto, l'obbligo dell'invio della raccomandata. Qui però volevo sottolineare che qualche giorno fa, appunto in questa vena produttiva dell'Agenzia delle Entrate, è stata emanata una circolare, che è la circolare 20E del 4 giugno, nella quale ci sono una serie di risposte a quesiti proprio in materia di cedolare secca, e per quanto riguarda il periodo 2011, se questo è anche diciamo il periodo oggetto del quesito del nostro ascoltatore, per il periodo 2011 l'Agenzia delle Entrate ha dato un'interpretazione assolutamente benevole, indicando che anche chi non ha inviato la raccomandata può comunque andare ad applicare la cedolare facendo l'opzione di fatto in dichiarazione. Può farlo in un secondo momento, comunque, Francesco, magari per non saperne leggere né scrivere, se la manda al suo inquilino, oppure adesso tanto vale non mandarla più. Pellegrino, che ne dice? No, da questo punto di vista sul 2011, con questa interpretazione dell'agenzia, superiamo il problema andando semplicemente ad indicare l'applicazione della cedolare secca in dichiarazione, anche se non c'è stata la preventiva comunicazione con la lettera raccomandata al conduttore. Benissimo, quindi lo lasciamo, anche se capisco che magari inizialmente si è arrabbiato, per il momento l'Agenzia delle Entrate sorvola su chi si è dimenticato. Valcarenghi, allora, abbiamo già detto prima che nel modello unico di quest'anno debuttano le due nuove imposte che colpiscono gli immobili e le attività finanziarie detenute e possedute all'estero, l'IVIE e l'IVAFE, due termini abbastanza complicati, ma ci chiedono che scadenze hanno questi tributi, appunto, finiscono in dichiarazione dei redditi, per cui è tutto nel calderone, da quello che capisco. Tutto nel calderone, esattamente, quindi la stessa scadenza. È bene che però ricordiamo, non è richiesto per queste imposte nuove alcun versamento in acconto. Quindi se la nostra IRPEF, ad esempio, richiede il saldo del 2011 più gli acconti dell'anno 2012, per queste nuove imposte patrimoniali si chiude solo l'anno 2011, non si versa nulla in acconto e si rinvia, tra virgolette, ecco, il pagamento al saldo nella prossima dichiarazione. Probabilmente qualche ascoltatore immaginava, come per esempio Ivo che ci ha scritto, fateci sapere la scadenza, che ci fosse, come dire, una modalità a parte come l'IMU, cioè il bollettino postale o un F24 per pagare l'IVIE, non è così? No, sono stati istituiti codici tributo che vanno sempre all'interno inseriti dell'ordinario modello F24. Benissimo, allora andiamo a Valeria da Verona. Valeria, buongiorno, rapidissima, grazie, così sentiamo più ascoltatori possibili prima della nostra pillola INPS, che peraltro ve lo preannuncio, pensate un po' che coincidenza, questa settimana riguarda proprio gli esodati. Valeria, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo solo chiedere se con un reddito presso un'azienda di 12.000 euro netti all'anno è obbligatorio fare la dichiarazione dei redditi. Beh, sai Valeria, l'obbligatorietà è per la sua azienda che le deve consegnare il CUD e certificare che tipo di redditi le ha elargito l'anno scorso. Poi la dichiarazione dei redditi serve anche a lei qualora avesse delle spese sanitarie da scaricare, se avesse il mutuo e quindi gli interessi passivi su questo. Non c'è il concetto, Pellegrino, mi aiuti, di obbligatorietà sulla dichiarazione dei redditi è nel caso in cui magari Valeria, oltre a questo lavoro, ne facesse un altro e quindi lo deve raccontare all'amministrazione fiscale. Certo, nel senso che se appunto Valeria ha soltanto il reddito di lavoro dipendente e non ha interesse a presentare la dichiarazione, perché come appunto dicevi non ha magari delle particolari detrazioni da far valere, oppure non ha attività all'estero per le quali deve andare a presentare comunque il modulo RW, per fare degli esempi, quindi non ha l'obbligo di andare a presentare la dichiarazione, perché appunto l'adempimento è già assolto attraverso il modello CUD che gli viene rilasciato da parte del datore di lavoro. Per quello che riguarda la detrazione degli interessi sui mutui, le percentuali sono rimaste invariate su quello che conosciamo, no? C'è un 19% su un tetto massimo di quanto? Allora, adesso lo ricerchiamo, non ce lo ricordiamo mai, quello sui mutui, dovrebbe, ma adesso lo cerchiamo al volo. Valcarenghi, eccolo qua, fino a un tetto massimo di 4.000 euro di interessi passivi, dico bene? Valcarenghi? Sì, assolutamente. ci cogli sempre di sprovvista. Vi metto lì proprio a prova, sì, sono tremenda, ma in realtà io a zero ogni volta tutte le trasmissioni che faccio, perché sono tante le cose da ricordare e quindi anche noi naturalmente non è che abbiamo l'automatismo, pur occupandoci frequentemente di questi argomenti, così come non ce l'hanno i commercialisti, che oltre alle tre cose che racconto io a Salvadanaio ne hanno migliaia di altre. Chi possiamo sentire adesso? Sergio da Napoli. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Pronto? Come no, Sergio, certo, siamo in diretta. Senta, la mia domanda è questa. Io ho acquistato l'anno scorso un appartamento a mia figlia e l'ho intestato a lei. Dunque, però l'appartamento non è locato e ci andrà a abitare fra un anno o due anni. Sì. Deve presentare, non avendo redditi mia figlia, deve presentare la dichiarazione dei redditi al di là dell'IMU? Grazie Sergio, certo, esatto, perché anche quella è un'altra partita complicata in questa relazione. Sergio Pellegrino. Allora, in questo caso la contribuente ha un immobile che di fatto è un immobile diciamo a disposizione da questo punto di vista. Ma non produce alcun reddito, per cui... Sì, per cui voglio dire, da questo punto di vista comunque non c'è, diciamo, l'obbligo dell'adempimento, perché comunque siamo al di sotto delle soglie, certo, reddituali. Se la figlia invece lavorasse, se avesse un lavoro dipendente, e anche se l'acquisto è stato fatto dal padre, ma l'intestataria è lei, dovrebbe comunque... Non è rilevante il fatto di chi abbia, diciamo, effettuato l'acquisto, chiaramente dal punto di vista finanziario non è... non è rilevante, appunto quello che conta è l'intestazione, l'intestazione dell'immobile. Un'ultima domanda la faccio a Valcarenghi, ce la scrive Gian Pietro, questa in qualche maniera è divertente, mi permette di prendere un po' in giro i commercialisti. L'ascoltatore ci scrive: voglio compilare da solo il modello unico, un po' come ha fatto l'altro che ci ha chiamato prima, adesso non mi ricordo, forse Francesco. Quali conseguenze ci potrebbero essere in caso di errori? Valcarenghi: se io affido la mia dichiarazione dei redditi ad un commercialista, dovrebbe teoricamente avere un'assicurazione privata che lo tutela da queste situazioni e quindi, come dire, poi continua ad assistere anche il contribuente al quale ha fornito un'assistenza non appropriata. Se invece l'errore lo facciamo noi, a che cosa andiamo incontro? Ecco, dal punto di vista sanzionatorio, per l'Agenzia delle Entrate è indifferente chi abbia redatto la dichiarazione, quindi la eventuale sanzione che dovrebbe può arrivare, è sempre tanto a carico del contribuente. Ecco, è sempre a carico del contribuente. Chiaro che se la dichiarazione è stata elaborata da un professionista, il contribuente ha la possibilità di rivalersi, certo. Di rivalersi richiedendo la restituzione delle eventuali sanzioni al commercialista. Ma sia che la faccia il commercialista, sia che la faccia l'amico Gian Pietro che è appassionato di fisco, sicuramente sarà tutta corretta e quindi non ci saranno problemi di sanzioni. Molto bene. Allora, siamo arrivati all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con INPS, che ci aiutano da molte settimane a conoscere le novità dell'ultima riforma delle pensioni. Continuiamo a toccare, abbiamo iniziato ieri, un tema molto discusso, quello degli esodati. Ieri abbiamo parlato dell'accordo firmato pochi giorni fa che confermava la modalità di accesso alla pensione per i primi 65.000 soggetti ricondotti a questa categoria. È proprio di ieri pomeriggio la notizia secondo la quale i lavoratori esodati che potrebbero avere diritto ad andare in pensione sulla base delle vecchie regole secondo il decreto Salva Italia e mille proroghe sarebbero 390.000. Sapete che tipo di reazione si è scatenata nel governo e comunque poi quello che faranno la Fornero con l'INPS lo sapremo nei prossimi giorni su questa guerra di cifre. Intanto abbiamo la pillola di oggi che definisce le categorie di lavoratori che, stando alla riforma e al decente decreto, possono ottenere la pensione secondo le vecchie regole. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Quali sono le categorie di lavoratori previste dalla riforma e dal recente decreto sugli esodati che potranno ottenere la pensione secondo le vecchie regole? Rientrano tra gli esodati, come individuati dalla riforma e dal recente decreto, i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga che risultano licenziati alla data del 4 dicembre 2011. I lavoratori titolari di prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà o che sono stati ammessi a beneficiarne entro la data del 4 dicembre 2011. I lavoratori che entro la stessa data sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria o che sono stati esonerati dal servizio. E ancora, i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o collettivi. E infine, i lavoratori in congedo alla data del 31 ottobre 2011 per assistere figli gravemente disabili. Abbiamo finito, Salvadanaio torna domani, buona giornata.